inglesi sono forti a fare dal giornalismo anche una cosa, diciamo, di basso livello. Io ho detto che ci sono certi giornali in Inghilterra che servono solo a pulire i vetri della macchina, quindi... Noi giocavamo con un assetto di 4-1, come voi sapete, 4-1. Come Marchionne mette un pullover, mette i Bermuda, insomma. Sì. Tutti convocati di Carlo Genta. Diciamo che per l'allenatore è convocabile, per il presidente è convocabile, quindi è pronto a giocare. Sì, pronto a giocare, poi lo vediamo, Insomma, Franco Piattanida, autore di questo programma, Fabio Cantadori, riconvocato in regia, tutti convocati voi all'800240024. Vi giuro che avrei aspettato ancora un po', però... l'affare Snyder ci ha proiettati nel futuro, e allora a questo punto è facile chiedersi, tra le letterine che vengono inviate al Polo Nord da Galliani, da Allegri e da tutti quanti, che campionato sarà nel 2013. E io vi chiedo, chi vorreste e chi non vorreste più nella vostra squadra? Ma partiamo dalla questione Snyder, che tutto sommato, secondo me, è anche divertente. Non gioco più, me ne vado, non gioco più. No, io sto bene, sono sempre stato bene. Solo capire in due parole questo. Ma insomma, come è andato? Sì o no, dopo esce qualcosa, ragazzi. Questo pomeriggio esce qualcosa, va bene? Da parte nostra, ok? Ed ecco cosa è uscito nel pomeriggio. Come posso accettare un nuovo contratto a queste condizioni quando nemmeno gioco? Non ho proprio motivo di firmare in queste condizioni. In questo momento la mia scelta è di non firmare con l'Inter a queste condizioni. Quando ho dovuto firmare nel 2010 ero orgoglioso di averlo fatto con tutto il mio cuore. Vabbè, tutto il mio cuore poteva risparmiarselo magari, cosa dite? Anche adesso non voglio niente più che giocare. Sono fisicamente e mentalmente a posto, in forma, vorrei giocare, vedremo nei prossimi giorni. Prima si diceva che ero fuori per il contratto, lo stesso Branca oggi invece mi ha detto che la scelta di non farmi giocare è esclusivamente dall'allenatore, a prescindere dal contratto. Dunque, convocato o non convocato Snyder? Mi sa non convocato. Voi invece sì. 800240024. Convocato anche Moratti, che ha risposto alla lettera di Wes. Mi sembra che sia più molto mediatica come cosa. È molto normale invece come rapporto, cioè un giocatore a cui naturalmente si cerca di capire se ci si può mettere d'accordo su altre basi, altrimenti rimane a giocare, però è che sia in forma, che giochi bene. Quindi giocherà? Certamente, appena può gioca, insomma, comportamento molto di buon senso dalle due parti, e poi adesso sta a loro rispondere, ma insomma il loro sta Snyder, che poi in fin dei conti è uno dei nostri, quindi poi vediamo cosa che... Quindi al secondo incontro ci sarà anche lei? No, ma credo sono cose che si possono risolvere tranquillamente, se c'è bisogno sono presente, insomma. Ma no, ma io ho letto appunto che noi eravamo molto offesi da questa cosa, credo proprio di no, almeno io personalmente no. Mi sembra che uno abbia la libertà di scegliere, quindi mi sembra che sia veramente interessante che si informa. Se in forma gioca, se non in forma non gioca, non deve trovare altre scuse. E dunque questo è ciò che dice Moratti, molto mediatica come cosa, beh, per forza, praticamente è avvenuto tutto su pubblica piazza, quindi non poteva che essere mediatica. Mi tocca, ma con grande piacere, salutare e ringraziare da Sport Italia Michele Crescitiello. Ciao Michele. Ciao Carlo, buon pomeriggio, ben ritrovato. Allora, ciao. Dove va? Dove va Wesley? Il ragazzo, certo. Il ragazzo in questo momento, se non si trova una soluzione, resta all'Inter, resta blindato dell'Inter, è un po' come il caso Pandev, è brutto dirlo, ma siamo alle solite. Da una parte bisogna anche sottolineare le contraddizioni dell'Inter, perché può anche aver ragione che in questo momento di crisi, di austerity, propone di spalmare l'ingaggio al calciatore, però ricordiamo che nel momento in cui Moratti per la prima volta parlò di fair play finanziario e l'Inter è pronta ad adottare questa nuova strategia voluta dalla UEFA, sei mesi, esattamente sei mesi dopo Sneijder ha firmato il rinnovo milionario di contratto. Oggi Sneijder guadagna al mese 500.000 euro netti di ingaggio, 500.000 più tasse, quindi consideriamo che sono un milione di euro lordo di ingaggio al mese. Se consideriamo ovviamente che devi togliere il 31,4% dalle tasse su 500.000 euro netti, capiamo che l'ingaggio del calciatore è molto molto importante. Il problema vero dove sta? Che Sneijder un anno gratis all'Inter non vuole giocare. Il problema dove sta? Che oggi gli olandesi scrivono a livello nazionale che Stramaccioni è un burattino nelle mani della società, e allora capisci che il caso è scoppiato. Ieri la dichiarazione del presidente Moratti, diciamo che calmano un po' gli animi, però poi quello che è successo con Sneijder ovviamente indietro non si può tornare. Probabilmente a livello comunicativo è stato commesso un errore anche dal direttore Branca. Oggi però la situazione è semplice: se la settimana prossima, se nel prossimo match contro il Napoli Sneijder sarà fuori per scelta tecnica, ci sarà un caso che da nazionale diventerà ancora più grande, internazionale a tutti gli effetti, e quindi non si torna in questo caso sui propri passi. Io continuo a pensare, Michele, che sia una fesseria comunque non far giocare questo giocatore a prescindere dalla volontà di venderlo a gennaio, perché è sotto contratto, perché non conviene a nessuno non farlo giocare, perché l'Inter ne ha bisogno per mille e una ragione. Poi non so che mercato possa avere Sneijder a quelle cifre. No, alle cifre dell'ingaggio, alle cifre che chiede l'Inter, Sneijder non è che... La tua domanda e la tua osservazione è giusta. Il problema è che Sneijder in queste condizioni non ha un mercato, e meno gioca e meno ha mercato. Quindi diciamo un po' come il cane che si morde la coda. Da una parte l'Inter, diciamo, potrebbe avere ragione, perché chi non adotta la politica societaria ovviamente è fuori. Però con i contratti, nel momento in cui ci sono i sindacati, sia a livello europeo e sia a livello nazionale, dove Damiano Tommasi dell'Associazione Italiana Calciatori già si è fatto sentire, in questo caso l'Inter non può superare la linea. In questo caso ovvio che la situazione è complicata. L'unica squadra che poteva pensare di puntare su Sneijder, visti i buoni rapporti che ci sono con l'Inter, è l'Anci, dopo l'operazione di Samuel Eto'o. Però non arrivano a quelle cifre, e alla calciatore hanno proposto praticamente meno della metà di quello che è l'ingaggio attuale, e ovviamente Sneijder dall'altra parte, con il coltello dalla parte del manico, dice: io sto bene qui, non vado da nessuna parte. Mentre Steven Jovetic dice che alla Fiorentina sta benissimo, non pensa di andare da altre parti, però nella vita non si sa mai, ma in questo momento ho altri pensieri. Queste le cose che dice Jovetic. C'è Galliani che tutte le volte che gli viene in mente Balotelli si scioglie come un cioccolatino al sole, sentiamolo. No, ma Balotelli è un fatto sentimentale, quindi Balotelli è sempre... Ma rientra in questo l'opzione di un prestito per Balotelli? Quello non ho capito. Balotelli è un giocatore del City, basta con Balotelli. Che meraviglia, quanto amore, Michele Cricitiello. Sì, quanto amore, le risposte sono sibilline ed è giusto che sia così. Il dottor Galliani in questo momento non può parlare di Balotelli, anche se Raiola si sta muovendo, perché al Manchester City la parentesi di Super Mario, sappiamo, è pressoché finita. Molto dipenderà anche dal futuro di Roberto Mancini. Le domande sono: in prestito, sì, ma il Manchester City, dopo aver investito tantissimo su Balotelli, non può darlo in prestito. L'ingaggio di Balotelli chi lo paga? 50% il City e 50% il Milan? La vedo abbastanza dura. Ovvio che il Milan un sogno nel cassetto ce l'ha, però anche qui dobbiamo fare il conto con le contraddizioni, perché se prendi Balotelli, che ha un ingaggio pesantissimo, e vuoi dar via giustamente Robinho, che ha un ingaggio altrettanto pesante, pari a 3 milioni di euro, allora una spiegazione non la troviamo. Nel frattempo ci sono anche maxi operazioni che non riguardano solo le big, perché Genoa e Udinese stanno allestendo un grandissimo scambio che potrebbe portare Fabbrini e Floro Flores al Genoa, Merkel all'Udinese. E poi ricordiamo che invece per quanto riguarda l'Inter, prima giustamente tu mi chiedevi di Sneijder, ma l'Inter sta per chiudere, ormai forse già l'ha fatto, ma manca soltanto il dettaglio, ma nei contratti il dettaglio è fondamentale: Marković del Partizan Belgrado. E nella letterina di Allegri c'è Balotelli, però Galliani aveva parlato anche di Neymar, sarà per affinità di cresta con El Shaarawy. Ma non ci sono le condizioni per Neymar. Abbiamo parlato, ricordiamoci che abbiamo parlato di due stati, due inverni, quindi di quattro sessioni di calciomercato di un signore che si chiama Paolo Enrique Ganso. Il Milan lo doveva prendere, Braida va in Brasile, il suo agente, che era praticamente lo stesso di Kakà, Paolillo, Gaetano Paolillo, arrivava a Milano e arriva in via Turati, e c'è Ganso, non c'è Ganso, e manca un milione, mancano 10 milioni, e se è infortunato lo prendiamo a gennaio, poi lo prendiamo a giugno, e invece alla fine è rimasto in Brasile, proprio perché ad oggi con i mondiali del Brasile sempre più vicini, i brasiliani vogliono restare in patria e soprattutto se prima non c'erano i soldi per far sì che un calciatore potesse crescere in terra brasiliana, oggi invece ci sono più soldi in Brasile che in Italia, quindi Ganso, Neymar, se vanno, vanno in Europa o in Spagna, altrimenti l'Italia non ce lo possiamo permettere, proprio per il famoso 31,4% che tanto, tanto pesa nelle tasche dei calciatori italiani e esteri che in Italia appunto non vogliono più venire a giocare, anche per il blasone che sta scemando, caro Carlo. Senti, caro Michele, invece io voglio farvi sentire un altro Galliani commovente, da lacrime agli occhi. Ibrahimovic non lo sento, purtroppo non lo sento. Sempre occupato, o non risponde? No, io non l'ho più chiamato, l'ho chiamato qualche volta e non mi ha risposto, sento tutti gli altri ma non Ibra. Non gli risponde più al telefono, povero Galliani. Lo chiama, voleva salutarlo, Ibrahimovic... Sono fatti loro, no? Milan non mi interessa più, eh? La curiosità è perché lo chiama, Carlo. Ma per salutarlo, per sentire come va a Parigi, per sentire se possono fare magari qualcosa, una serata insieme, perché gli vuole bene. Allora è giusto che risponda Ibra. Per sapere com'è la reggia di Versailles, dove abita Ibra. Per questi motivi, non fare il malizioso, per forza, Michele. No, certo, hai ragione, chiedo scusa. Sentiamo Antonio da Siena, va. Antonio, buongiorno. Buongiorno a tutti. Io volevo ritornare un attimo sulla faccenda Snyder, che mi sembra un attimo quella più scottante di questi giorni. Ho sentito anche quello che ha detto il direttore Crescitiello e sono d'accordo con lui, soprattutto per quanto riguarda l'imbarazzo. Io sono un tifoso interista, tra l'altro, ma sono d'accordo con lui per quanto riguarda l'imbarazzo, senz'altro l'impaccio che ha avuto l'Inter nel gestire questa faccenda. L'Inter ha avuto un po' di impaccio anche un po' nel gestire il dopo triplete dal punto di vista del mercato, questo sì. Senz'altro. Però direi che di questi tempi, insomma, farsi tanti problemi sul fatto che un giocatore magari possa avere qualche remora, come un giocatore come Snyder, a spalmarsi magari il contratto di un solo anno, direi che è un po' esagerato. Se il calcio italiano deve fare un salto di qualità per quanto riguarda l'austerity, dobbiamo passare sopra a parecchie. Sì, ma la sensazione, Antonio, è che tra Snyder e l'Inter non ci sia più feeling già da un pezzo, cioè già da un paio di stagioni fa, quando venne messo sul mercato, non riuscirono a venderlo, poi ha fatto grosso modo due stagioni da lungo d'agente, perché ha giocato pochissimo, vuoi per guai reali, vuoi per il fatto che un giocatore, se non ci crede e non sta bene, non rischia, a prescindere dai soldi che prende. Michele Crescitiello, non è che tu questa sensazione? No, io sono d'accordo con quello che dice il radioascoltatore, però non possiamo pensare che Snyder si faccia il problema dell'austerity e del calcio italiano in crisi, o perché c'è la crisi internazionale del paese, perché bisogna dare i soldi alle banche spagnole per far sì che il sistema vada avanti. Snyder dice molto in maniera molto terra terra: a me me ne frega di quello che sta succedendo, me ne frego dell'Inter, i 6 milioni nessuno ha obbligato il presidente Moratti, nessuno ha puntato a Moratti la pistola alla tempia, e giustamente io cosa voglio fare? Voglio semplicemente ottenere quello che è il mio ingaggio. Ha ragione da una parte, se invece non si comporta in maniera da professionista e professionale, allora dall'altra parte può l'Inter far valere le sue ragioni. Quali sono le ragioni? Ancora una volta un licenziamento per giusta causa. Io penso che, al contrario del caso Odriano, qui non ci sono ancora le condizioni per poter pensare ad un'azione così forte e così importante. Sì. Sì, intanto c'è Giovanni che scrive: se Galliani prende Balotelli stasera esco con Belemma, con la M, scrive con la N, Belen, non si preoccupi Giovanni, anzi io glielo auguro di tutto cuore, sarà dura però che succeda così presto, o che succeda in generale, in valore assoluto. Comunque, a proposito di tutti i convocati, 800 24 00 24, non so che numero farai tu, Michele Crescitiello, per convocare Snyder al gran gara del calcio, perché ci sarà, no? Io approfitto del tuo assist, sei gentilissimo, perché adesso siamo nel pieno del lavoro del prossimo gran gara del calcio. Chissà dove devi andarlo a pescare. No, però mi sa che faccio fatica, visto e considerato il campionato dello scorso anno dell'Inter e di Snyder, quindi siccome vengono premiati solitamente quelli che si sono contraddistinti particolarmente nella stagione precedente, penso a tanta Juventus, penso a un po' di Milan, un Milan che fu e non a un Milan che è, penso a un bel po' di Udinese, al Napoli, però l'anno scorso Snyder non ha fatto grandi cose per meritarsi un premio al Gran Gallo del Calcio. Poi chissà, tutto è possibile. Grazie Michel. Alla prossima. Presto, divertiti, alla prossima. Ciao Carlo, ciao. Divertiti, grazie. Che ne hai da fare quest'anno. La sessione invernale è cominciata molto presto. 800 24 00 24 è il vostro numero verde. Sentiamo Tiziano da Vicenza. Buonasera, intanto innanzitutto e complimenti per la trasmissione. Grazie. Senta, francamente io sto con Gaider. L'Inter ha voluto acquistarmi a suo tempo e ha contrattato un contratto. Ora lo vuole rivedere completamente senza farmi giocare. È pur vero che se io sono giocatore, se non gioco scalo di valore, quindi non mi vuole più nessuno. Però evidentemente c'è un contratto, eppure quel contratto, quel pezzo di campo, qualcosa deve valere. Ma certamente, purtroppo i contratti del calcio da una parte e dall'altra, da parte dei giocatori come delle società, valgono poco più della carta igienica inchiostrata, no? Però lei non ha tutti i torti, cioè mi volete ridurre il contratto, mi volete far spalmare il contratto e nel frattempo non mi fate nemmeno giocare per scelta tecnica, e allora io mi tengo il mio contratto e voi vi tenete la vostra scelta tecnica, nonostante i soldi che ballano, che sono una cosa vergognosa, come molti sottolineano, però stiamo parlando di prestatori d'opera infungibili, stiamo parlando di grandi campioni, stiamo parlando di rockstar, quindi non, si va sulle leggi di mercato, ci piaccia o no. Anche se non ci piace a noi, a voi, come sottolineate, facciamo fatica a fare la spesa alla fine del mese, e lo so. Snyder invece alza il telefono a quello che vuole, beato lui. Angelo Treviso, buongiorno. Sì, buongiorno. Da interista, tre cose velocissime. La prima, questione Snyder. Penso che, presumo che, dati i capricci che sta facendo, ci sia sempre un posto in primavera dove giocare da titolare, così magari si rifà un po' le ossa e torna ai fasti della triplette. Sì. La seconda questione, poi però Angelo, bisogna anche venderlo. Ma certamente, ma Snyder è rimasto invendibile due anni fa perché nessuna squadra se lo pigliava, visto l'ingaggio che aveva, lui era prontissimo a partire. Adesso, se le decisioni della società sono quelle di farlo rimanere in panchina o sarebbe meglio in tribuna, che ci stia, voglio dire, nessuno lo rimpiange, tutto qua. Beh, glielo dico da interista. Seconda cosa, non crede che sarebbe bello se proponessimo alle squadre di calcio italiane di fare una bella defiscalizzazione in proporzione a quanti giocatori italiani giocano nei team, nelle squadre? Non sarebbe una cosa bella? Sarebbe una cosa interessante, questo sì. Quanto al resto, io non condivido quanto lei dice. Snyder in tribuna o nella primavera non conviene né a lui né all'Inter. Questo no, è chiaro che è un giocatore da vendere, però è anche un giocatore che potrebbe servire molto all'Inter in questo momento, che ha voglia di giocare, che ha voglia di dimostrare di essere ancora Wesley Snyder. Due botte via, poi a gennaio se ne andrà dove sarà possibile, quindi non conviene a nessuno questo braccio di ferro, a mio parere. Allora, prima di fermarci un attimo per la borsa, andiamo a lezione da chi? Dal professor Lotito. Era Giulio Cesare che però per l'Inter attuale questo di Venni di Vici è quella di dimostrare che la bontà di un progetto può rappresentare, o di un'azione, può rappresentare anche un riconoscimento da parte degli altri, quindi una vittoria consapevole. Non inconsapevole, cioè che la forza delle proprie azioni, la consapevolezza delle proprie azioni e della bontà di quello che uno sta facendo, nella propria azione di governo, intesa governo in senso lato, sicuramente ti dà la forza di dire che in partenza tu sei in grado di portare anche il risultato e quindi di perché altrimenti sembrerebbe un atto quasi di arroganza di dire no, questo se fosse interpretato in modo estensivo. Intanto mi sto tenendo aggiornato e rabbrividisco a ciò che è successo in Olanda, l'avrete letto, con tre ragazzi che hanno tra i 15 e i 16 anni che hanno ucciso a calci e pugni un dirigente della squadra avversaria che per l'occasione, come spesso accade sui campi delle giovanili, non solo in Olanda ma ovunque, aveva svolto le mansioni di guardaline. Finiranno alla sbarra. Il New Slotten, vabbè, ci mancherebbe, ha espulso i tre ragazzi arrestati per l'omicidio, che finiranno alla sbarra. Blatter che dice: la violenza è un problema di tutta la società e per questo può verificarsi anche sui campi di calcio, mi fa venire da vomitare. Allora, 800 24 00 24, e siete sempre convocati, voglio le vostre voci, anche le vostre parole scritte, 349-238-6666 con i messaggi, con Twitter, anche qui vi invito a collegarvi con noi. C'è chi scrive: anche Lucio nella Juve non gioca più e nessuno parla di mobbing. Amico mio, non è questione di mobbing, è questione di normale logica calcistica. Ci vuole un pazzo per far giocare Lucio al posto di uno dei due tra Bonucci e Barzagli, che sono nettamente più forti, nettamente più collaudati e sono giustamente i titolari. La follia semmai è stato andare a prendere da parte della Juventus Lucio, ma su questa è un'altra storia. Pierluigi Verona, buongiorno. Buongiorno a lei, buon pomeriggio. Dica. Ma niente, la mia domanda è semplicemente sentire un parere anche da chi forse se ne intende un po' di più su un giocatore della Roma, che è Pjanic, di cui no, mi sono fatto un'idea ben precisa. Ora non è che mi faccio l'idea precisa su tutti i giocatori del campionato, però mi faceva piacere sentire un parere su questo giocatore che secondo me è forse un po' sopravvalutato. Secondo me Pjanic è un signor giocatore che non si prende con Zeman e quindi deve avere una testolina ricamata anche lui, e non sta giocando una buona stagione, non è nei piani, nei programmi, nel cuore forse di Zeman, ma a me piace moltissimo. Pjanic a me piace moltissimo, lo ricordo l'anno scorso quando era calato dentro una Roma molto diversa da questa, e lo ricordo fare prestazioni da signor giocatore, a calcio, a senso tattico, non è un granché veloce, però mi sembra davvero un giocatore importante, magari non per Zeman, ma un giocatore importante. Intanto io vi do, perché mi piace farlo e perché magari poi intervenite, mi piace molto quando intervenite su discorsi diversi da quelli calcistici, tutti i giorni, 800 24 00 24. Allora, dall'America Basket, finisce nelle mani di Danilo Gallinari il primo derby della stagione, derby italiano naturalmente, tra Gallinari e Bargnani del campionato NBA. Dopo tre sconfitte consecutive, Denver torna a vincere con i derelitti Raptors di Bargnani, che ne segna 23 ma gioca in una squadra che fa schifo. Gallinari si ferma a 13 ma i Nuggets sono un'altra cosa. Tra gli altri, Portland che vince a Charlotte dopo tempi supplementari, Detroit che batte Cleveland, New Orleans che supera Milwaukee, i Clippers che vincono di 1 sul campo di Utah, Golden State Orlando 94-102, e LeBron James per Sports Illustrated è lo sportivo dell'anno. Questa me l'aspettavo abbastanza, non ci voleva molta fantasia, come non ci vuole molta fantasia nel compilare la lista banalissima che ben sapete, perché è storia della settimana scorsa, dei tre candidati al prossimo Pallone d'Oro, premio di cui sul quale non riesco proprio ad appassionarmi, insomma. Enzo da Viareggio, buongiorno. Buongiorno. Dica. Carlo, io chiamo per la Olimpia Basket Milano. Sì. E senti, io penso che Scariolo sia un buon allenatore, però sia capace di far vincere squadre vincenti. Nel progetto Olimpia ha dimostrato chiaramente di non essere in grado di poterlo fare con una certa con una certa precisione. Intanto non ci scordiamo che lui ha costruito la squadra su quello che lui ritiene un play e tale non è, perché Omar Cook è un'ottima guardia, ma ha dimostrato non credo sia un modesto playmaker. Invece. No, io come play credo che sia molto meglio Stipcevic, l'ha dimostrato nella partita ultima contro Sassari, che quando è entrata la squadra un minimo di giro l'ha avuto. Ovviamente ci sono dei problemi difensivi, perché sia l'uno che l'altro quando si ritrovano con dei play di alto livello. Questo è chiaro, però io penso, Enzo, io penso, ripeto, mi fa molto piacere ricevere telefonate random su ogni argomento, compreso ovviamente il basket. Io penso che né Cook né Stipcevic possano essere giocatori leader di questa squadra, possono essere playmaker di una squadra al top italiano ed europeo. Guardate chi erano i playmaker di Siena quando vinceva, guardate chi sono ora i playmaker di Siena, guardate quali sono ora i playmaker delle squadre che vanno per la maggiore nell'NBA. È chiaro che né Cook né Stipcevic contano nulla, non hanno nulla a che vedere con questi giocatori. Continuo a considerare Sergio Scariolo uno dei migliori allenatori europei, in questo momento è pure lui in discussione, però è pure lui in discussione, però io credo che si tirerà fuori dalle secche. Continuo a pensare che Milano sia una squadra costruita con tanti buoni o ottimi giocatori, però una squadra nella quale si fa fatica a trovare delle gerarchie. L'altra sera con Sassari ho visto una grande partita di Hairston, nel momento in cui Langford, che è l'altro fuciliere designato, era in panchina per infortunio. Insomma, mi sembra ancora una squadra senza logica, anche se trovo interessante la nuova svolta di una costruzione che parte dalla difesa, perché Milano sta provando a ripartire da lì, a cambiare pelle, a ripartire da lì, a cominciare a difendere sul serio. Luca, Bologna, buongiorno. Sì, buongiorno. Sul caso Sneijder, dunque, prima quell'ascoltatore che ha fatto il paragone con Lucio è assurdo, anche, oltre per le ragioni che ha detto lei, ma perché semplicemente la Juventus non sta tentando assolutamente di costringere Lucio a farsi spalmare l'ingaggio, ad abbassarlo comunque. No, semplicemente Lucio non gioca perché sì, sanno benissimo che è peggio degli altri due, no? Certo, certamente, ma in ogni caso sarebbe accettabile anche tenere fuori Sneijder, se per assurdo ci fossero davvero ragioni tecniche, se l'Inter non si fosse autodenunciata con le dichiarazioni di Branca, quelle abbastanza surreali, quando in pratica. E poi mi sembra che più che altro stia facendo, così per ovvia comprensibile mancanza di autorevolezza e di personalità, una figuraccia stramaccioni due volte, prima perché costretto a dire che tiene fuori Lucio per ragioni tecniche e poi convocare, non so, Coutinho o Duncan in panchina, quella gente lì, insomma, non è molto credibile. E poi perché oggi ho letto delle dichiarazioni di Moratti che pare anche così, sempre in questa sagra dell'assurdo, sì. Ha detto proprio oggi o ieri, insomma, beh, ma io sto aspettando che Stranaccioni convochi Sneijder, non aspetto altro, insomma, sì. Vabbè, allora siamo veramente alla... E volevo chiudo rapidissimo, avrei fatto i complimenti a Criscitiello e anche a Pedulla, che Criscitiello era in linea, proprio perché sono due tra i pochi che su questo argomento dicono le cose come stanno, in modo obiettivo, sì, senza piaggerie. No, ma non è questione di piaggerie, che sono personaggi molto informati. No, sono molto informati, ma ci sono anche altri altrettanto informati. E non mi riferisco ovviamente anche lei gente allo stesso livello. No, su questo punto no, nego tutto, perché non è vero. Io sono totalmente disinformato, o comunque ne so quanto voi di questioni di mercato. C'è chi ci lavora seriamente, come appunto Michele Criscitiello, lui sì che è informato sul serio. Io la ringrazio e vado da un altro personaggio che è informato per questioni professionali, come uno dei principali procuratori, Federico Pastorello. Buon pomeriggio, Federico, grazie. Buon pomeriggio, grazie a voi. Come sta? Tutto bene? Bene, tutto a posto, sì, tutto bene, grazie, tutto bene. Tutti convocati. E noi abbiamo convocato Federico Pastorello per chiedergli subito innanzitutto una valutazione sul caso Snyder e poi avrei altre due o tre curiosità da sottoporre. Ma diciamo che il caso Snyder ovviamente io ne so sì, forse un po' di più diciamo di chi legge i giornali, però ovviamente non sono così addentro come il suo agente al problema. Io credo che questa situazione non sia altro che frutto dell'esigenza delle società di calcio, non parlo solo italiane, anzi forse le italiane se ne sono accorte troppo tardi, ma del calcio in generale europeo, che purtroppo i bilanci vanno visti forse prima delle passioni sportive. E quindi chiaramente al giorno d'oggi un giocatore in Italia che guadagna le cifre che guadagna Snyder probabilmente non ce lo possiamo più permettere. Certo, la parte curiosa è che non è che si tratta sotto banco e mentre il giocatore è in campo e gioca, ma... lo si mette non fuori rosa, ma lo si allontana dalla squadra, trincerando questo allontanamento dietro una non convocazione per scelta tecnica che fa ridere, e poi sì, la vicenda esplode alla luce del sole, no? Certo, ma sì, diciamo che questa può essere una tecnica, un modus operandi che può essere effettivamente discutibile o meno. Dopo io credo che fondamentalmente sia fatto anche in virtù di un tentativo di forzare un pochettino la mano, nel senso che probabilmente il calciatore, se fosse tranquillo, felice, giocasse tutte le partite, probabilmente poi tutta questa voglia di trovare una soluzione non l'avrebbe. Dopo può essere anche che sia vera la volontà del nuovo ciclo, diciamo, di Moratti e dell'Inter di voler cercare comunque di cambiare filosofia, e quindi in tal senso avere nello spogliatoio un giocatore che guadagna 2, 3, 4 volte o 5 volte un titolare tanto quanto lo è lui, probabilmente potrebbe rovinare quelli che sono gli equilibri di uno spogliatoio. Io ripeto, sto facendo ovviamente sempre delle presunzioni mie personali, quindi parlo ovviamente a titolo di sì, ma addetto ai lavori. Ha ragion veduta, appunto, a titolo di addetto ai lavori. Che ne sa lei del giro degli allenatori internazionali? Perché io leggo Mourinho sempre più lontano dal Real, parla col Paris Saint Germain, magari al Real potrebbe andarci Ancelotti, scambio di panchine, ma dicono anche Zidane a sorpresona al Real Madrid, molto divertente. No, diciamo che effettivamente è diventato da qualche anno c'è anche questo mercato degli allenatori, insomma, ecco, un Porto che l'anno scorso vendette per 15 milioni il suo ad Abramovic, eccetera. Quindi chiaro, conoscendo un pochettino il modus operandi di Mourinho, venendo insomma in questi anni e seguendolo anche tramite suo agente, di solito c'è sempre una strategia in quello che lui fa. Quindi io sinceramente i messaggi che sta dando in direzione di Parigi, in direzione anche soprattutto del City, con questi molto sottili attacchi, anzi neanche tanto troppo sottili sinceramente, nei confronti del collega Mancini, effettivamente mi fa pensare a qualche cosa. Io credo che invece la situazione di Ancelotti col Paris Saint Germain sia diversa. Lui ovviamente deve vincere e lo deve fare ora, subito. A livello nazionale, a livello nazionale deve assolutamente vincere, e a livello comunque internazionale insomma si stanno comportando bene, quindi diciamo che il problema ovviamente di Carlo sarà di dare delle risposte tangibili e concrete, quantomeno con la vittoria del campionato. Non dovesse arrivare quella, che sarebbe veramente un po' eclatante, effettivamente si dovrebbe parlare purtroppo di stagione fallimentare per lui. Conoscendo la mentalità di queste persone che non amano aspettare troppo, ci potrebbe essere il rischio di un caso. La pazienza non è la virtù migliore di chi ci mette tutti quei soldi. Senta, no, io non posso salutarla senza avere un classico aggiornamento sulle condizioni di Pepito Rossi, che nel cuor ci sta. Certo, no, guarda, tra altre cose sono molto fresche perché vengo da un viaggio a New York proprio la settimana scorsa, dove sono stato con lui 3-4 giorni, e diciamo che intanto mentalmente sta molto bene, vicino alla sua famiglia, che è una cosa per lui molto importante, quindi sta lavorando con grande voglia e soprattutto con la certezza di tornare più forte che prima. Questa è una cosa di cui io personalmente non avevo dubbi, ma è sicuramente una buona notizia. E i tempi di rientro dovrebbero essere rispettati, quindi si parla di marzo, quindi crediamo che intorno all'inizio di febbraio li possa riprendere l'attività insieme al gruppo e quindi insieme ai compagni di squadra, di quale società poi lo vedremo, comunque teoricamente insieme al gruppo di suoi colleghi. Ripeto, e lui la voglia di tornare è grandissima e nonostante un anno e mezzo di inattività sia tantissima, credetemi che tornerà tanto quanto forte, tanto quanto era prima, perché lui nei momenti di difficoltà è un ragazzo di carattere, un ragazzo di grande carattere. Sì. Senta, se non rompiamo troppo le scatole, ci dà una mano a convocarlo, a metterci in collegamento con nei prossimi giorni, a metterci contatto con lui, perché vorremmo farlo in modo. Non lo sentiamo da troppo tempo. Poi appassionato della vostra emittente, perché tanto arriva anche a Monte Carlo, quindi l'ascolto molto volentieri, essendo appassionato anche di borsa, e poi nei viaggi quando rientro in Italia siete una tappa fissa per me. Perfetto, allora ci dà una mano a contattare Pepito Rossi, lo diciamo pubblicamente. Grazie Federico Pastorello, grazie. Grazie a voi, buon viaggio. Grazie. Italy. So, in the final pool, Pool D, it's a heavily European-dominated pool. America's one thrown in, but with France, Ireland, and Italy, a real Six Nations theme to that. Ma noi aspettiamo una pula difficile, ancora due squadre del primo livello, Francia e di Olanda. Non abbiamo squadra dell'emisfero sud, è una particolarità. Conosciamo bene le due squadre, durante tre anni andiamo a vedere qual è il nostro livello in rapporto a questi avversari. Beh, potevamo andare peggio sicuramente, potevamo essere nella pool A dove c'è il Galles, che c'è anche la Nuova Zelanda e l'Inghilterra, quindi sicuramente la pool più difficile di questo sorteggio. No, sarà, è una pool sicuramente difficile anche la nostra, è una pool che ci va bene, poteva andare sicuramente peggio, ma sicuramente non lascia di essere una pool impegnativa. Allora, Giacomo Bagnasco, buongiorno. Buon pomeriggio a tutti. Hai un minuto e mezzo per presentarci questo girone mondiale, in cui mondiali 2015 in cui l'Italia è finita. Intanto diciamo che si conoscono due delle nostre quattro avversarie, Francia e Irlanda, mentre le altre due scaturiranno dalla fase di qualificazione che è in atto, saranno un'europea, quindi presumibilmente Georgia oppure Russia oppure Romania, e un'americana, quasi sicuramente Canada e Stati Uniti. Dando per scontato che non dovremo preoccuparci di queste due squadre qualificande, le due qualificate ci preoccupano non poco, però è bello affrontare la Francia, anche perché la affrontiamo ormai tutti gli anni, ma non abbiamo mai giocato contro la Francia al mondiale, e si può pensare che l'Irlanda sia sicuramente più dell'Italia alle prese con un ricambio generazionale, visto che i suoi grandi campioni in buona parte sono nati negli anni 70, quindi fra tre anni si può sperare di ridurre il gap. D'accordissimo con Parisse, se ci capitava l'Inghilterra come squadra di seconda fascia, essere in un girone con Australia e Inghilterra significava essere sicuri della data del biglietto di ritorno, così qualche speranza in più potrebbe esserci. Qualche speranza ce la portiamo nel viaggio di andata. Grazie a Giacomo Bagnasco. E a febbraio 2003 si comincia subito il Sei Nazioni con Italia-Francia. E questo è importante. Grazie a Giacomo Bagnasco, a tutti voi che ci avete seguito. Torniamo domani, naturalmente, tutti convocati dalle 2 alle 3. Franco Piantanida in redazione, Fabio Cantadori in regia. Ciao. Questa luce sparata, sembra usando.